一日が終わり、人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。営業時間は夜12時から朝7時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。メニューはこれだけ。あとは勝手に注文してくれてや、できるもんなら作るよってのが俺の営業方針さ。客が来るかって？それが結構来るんだよ。 The Sandman, Cacciatori di Sogni, scritto da Neil Gaiman, illustrato da Yoshitaka Amano. Capitolo 1. Un monaco viveva in solitudine accanto a un tempio sulle pendici di una montagna. Era un tempio piccolo e il monaco era giovane e la montagna non era la più bella né la più maestosa del Giappone. Il monaco custodiva il tempio in pace e tranquillità. Ma un giorno una volpe e un tasso passarono nei paraggi e si fermarono ad osservarlo mentre zappava la piccola zolla coltivata a patate dolci da cui traeva nutrimento per gran parte dell'anno. Il tasso guardò il monaco, poi il tempio e disse: «Facciamo una scommessa? Chi di noi due riuscirà a allontanare quell'uomo dal tempio potrà restare a vivere qui e fissarvi la propria dimora. Sono ormai tanti anni che al tempio non si ferma più né un viandante né un pellegrino, e dunque sarebbe un gran bel posto in cui sistemarsi, assai migliore del tronco cavo d'un tasso o della tana di una volpe». La volpe sorrise con i suoi denti aguzzi e strizzò gli occhi verdi. Poi sventolò la coda e guardò in basso verso il tempio e verso il monaco. Infine, rivolse nuovamente lo sguardo al tasso e rispose: «Bene, accetto la scommessa». «Faremo i nostri tentativi a turno», disse il tasso. «Comincio io». Intanto, nel suo orticello, il monaco zappava la zolla di patate. Poi si mise in ginocchio e prese a tirar via le erbacce dalle cipolle selvatiche e dalle piantine di zenzero. Infine, curò le sue erbe aromatiche. Quando ebbe finito, si pulì il fango dalle ginocchia e dalle mani e si diresse verso le stanze poste sul retro del tempio per prepararsi alle devozioni del vespro. Quella sera la luna piena splendeva immensa e argentea nel cielo violaceo. Il monaco sentì un gran trambusto fuori dalla porta. C'erano 5 uomini nel cortile, riccamente abbigliati, ognuno in sella un grosso cavallo. Gli uomini erano assai irsuti e il loro capo brandiva un'enorme spada dalla lama ricurva. «Chi custodisce questo tempio?» urlò con la voce tonante. «Chi si mostri all'istante?» Il monaco venne avanti, lasciandosi illuminare dal chiaro di luna, e fece un profondo inchino. «Sono io l'umile custode di questo tempio», rispose semplicemente. «Sei un insignificante nanerottolo, pelle e ossa», tuonò il capo. «Ma chi di noi può obiettare al valore degli dèi?» In verità, si dice che coloro che vanno in cerca della fortuna se la vedono scivolare di mano, evanescente come un arcobaleno, mentre coloro che disdegnano la buona sorte se la ritrovano a battere il gong dietro la loro porta. Il giovane monaco non rispose. limitandosi a sollevare appena la testa per fissare, con quei suoi occhi penetranti a cui nulla mai sfuggiva, gli uomini in sella ai loro cavalli. «Allora, vuoi conoscere cosa ha in serbo per te la sorte?» «Certamente», disse il monaco. «Sappi, allora, che ti manda a chiamare l'imperatore in persona. Devi raggiungere più in fretta che puoi il palazzo imperiale, dove il sovrano desidera parlare con te e avere conferma del fatto che sei proprio tu la persona che gli auguri e gli indovini gli hanno indicato. E così uscirai da questa tenebra e sarai eletto amministratore della corte imperiale, un incarico che ti porterà grande fortuna e ingenti ricchezze. Sia chiaro però che se non ti presenti al palazzo imperiale entro il prossimo giorno della scimmia, diverranno assai infausti. Gli auspici. L'imperatore si vedrà costretto a firmare la tua condanna a morte. Orsù, non indugiare un minuto di più. Lascia il tuo tempio prima che sorga il sole, o rischierai di risultare assai sgradito all'imperatore. I cavalli batterono gli zoccoli al chiarore della luna piena. Il monaco fece un inchino ancora più profondo. «Partirò immediatamente», disse, e i cinque cavalieri sorrisero. La luce della luna guizzò sui loro occhi e i loro denti, riflettendosi anche sulle briglie di metallo e i suoi finimenti di cavalli. «Ma prima di andare, avrei da porvi una domanda. E cosa vorresti sapere?» tuonò il loro capo, che con voce simile al ruggito di una tigre. «Perché mai l'imperatore avrebbe mandato un tasso per convocarmi a corte?» disse il monaco, a cui non era sfuggito il fatto che mentre i primi quattro destrieri avevano code equine, il quinto possedeva una coda da tasso. E dopo quelle poche parole l'uomo scoppiò in una risata, voltò alle spalle e rientrò nel tempio per dedicarsi alle devozioni della sera. Dal cortile si udì lo scalpiccio dei cavalieri che ripartivano, mentre dalla montagna riecheggiò il sogghignare stridulo e malizioso di una volpe assai divertita. Il giorno seguente, prima di mezzogiorno, una coltre di nubi nascose la cima della montagna. Erano nuvole plumbee e minacciose, perciò il monaco non si sorprese quando iniziò a piovere. Era una pioggia violenta che piegava i bambù e si abbatteva sui teneri germogli delle patate dolci. Avvezzo al clima di quel versante della montagna, il monaco continuò a pregare e non batté ciglio nemmeno quando i fulmini presero a squarciare il cielo, inondandolo d'un bagliore accecante, cui fece seguito un tuono talmente sordo e profondo che sembrava provenire dalle viscere stesse della montagna. La pioggia si fece più intensa. Il rumore era talmente cupo e martellante, come il rullante di 100 tamburi, che l'uomo riuscì a malapena a percepire un debole piagnucolio che proveniva dal cortile. Gli sembrava proprio che ci fosse qualcuno che singhiozzava. E così uscì dal tempio e vide accasciata sul terreno, che la pioggia aveva trasformato in un'enorme pozza di fango, una fanciulla completamente fradicia. Le vesti di preziosa seta erano zuppe d'acqua e le aderivano al corpo come una seconda pelle. Mentre l'aiutava a sollevarsi e la conduceva verso il tempio, dove sarebbero stati al riparo dalla pioggia, il monaco non poté fare a meno di notare la bellezza delle sue fattezze. «Sono l'unica figlia del governatore della provincia di Yamashiro», gli disse, mentre davanti al piccolo braciere si asciugava gli abiti e i lunghi capelli neri. «Mi stavo dirigendo verso questo tempio, accompagnata dalle mie guardie e dalle mie ancelle, quando siamo stati aggrediti da una banda di briganti, e solo io sono riuscita a fuggire. Ma prima di scappare, ho sentito dir loro che non appena la pioggia si fosse placata, si sarebbero inerpicati sulla montagna fino a questo tempio per darlo alle fiamme e uccidere chiunque vi avesse trovato». La donna raccontava la sua disavventura rifocillandosi con una ciotola di riso e una di patate. Mangiava avidamente, continuando a fissare il monaco con i suoi occhi d'un verde chiarissimo. «Orsù», disse lei, «fuggiamo via da questo luogo senza esitazione, prima che arrivino i banditi, perché se non lo faremo, periremo entrambi. In caso la sorte ci separasse, vi recherete nella provincia di Yamashiro e chiederete di mio padre, che è il governatore e vive nella dimora più ricca della regione. Vi ringrazio per la ciotola di riso, anche se le patate erano forse un po' asciutte». «Partiremo immediatamente», fece il monaco, con un sorriso appena accennato, che gli increspava gli angoli della bocca. «Ma prima dovresti spiegarmi una cosa». «Cosa volete?» chiese la fanciulla. «Puoi dirmi come mai il governatore di Yamashiro ha per figlia una volpe?» domandò il monaco. Non ho mai visto occhi come i tuoi in un volto umano. A quel punto, in men che non si dica, la fanciulla balzò oltre il braciere e quando toccò nuovamente terra si era mutata in una volpe, con il manto lucido e la coda alta e ritta. La volpe lanciò al monaco uno sguardo di sdegno prima di precipitarsi con un salto su un muretto di pietra. Lo percorse rapida fino all'ombra di un vecchio pino ritorto, dove si fermò un momento prima di svanire nella tempesta. Più tardi, nel pomeriggio, tornò a splendere il sole e il monaco poté compiere un giro intorno al tempio per raccogliere le foglie spazzate dal vento, i rami caduti e riparare i danni procurati dal temporale. Iniziava a scorgere un disegno dietro le vicende che gli stavano accadendo. Per questa ragione non si sorprese quando, diverse notti dopo, al tramonto, un'orda di demoni si trascinò fuori dal bosco e circondò il piccolo tempio. Alcuni avevano un volto da cadavere, altri una testa di mostro con zanne ingiallite, occhi sgranati ed enormi corna. Nessuno aveva mai udito un frastuono così dirompente. «Qui c'è un buon profumino di carne umana!» gridavano. «Di gustosa carne umana! Tiratelo fuori, che ce lo mangiamo! Arrostiremo cuore, viscere e cervello, e ci delizieremo con i suoi occhi, le guance e la lingua. E di fegato, trippa e testicoli faremo un sol boccone! Portatelo qua!» Allora, un gruppo di demoni iniziò a impilare in un'alta catasta i rami secchi che il monaco aveva raccolto, e tutti insieme si misero a soffiarci con il loro fiato possente, fino a quando i rami cominciarono a fumare e poi a bruciare. «E se io non venissi fuori?» gridò il monaco. «Verremo qua tutte le notti a calare del sole», gli urlò un demone con la testa che sembrava un pipistrello scoiaiato, «e solleveremo un tumulto forsennato fino a quando non perderemo la pazienza e daremo alle fiamme il tuo tempietto. Poi raccoglieremo dalle ceneri il tuo corpo bruciacchiato e ce lo sgranocchieremo avidamente con i nostri denti aguzzi». «Fuggi dunque», gridò un altro demone che aveva il viso di un annegato, con la pelle gonfia e gli occhi vitrei. «Vattene da questo posto e non faremo più ritorno». Ma il monaco non fuggì. Al contrario, uscì nel cortile e prese un tizzone incandescente. «Io non me ne andrò da questo posto», disse, «e le vostre pantomime mi hanno stancato. Ora, chiunque tu sia, volpe o tasso, prendi questo e questo», e cominciò a brandire a destra e a manca il tizzone. Dove prima v'era un'orda di demoni, comparve all'improvviso solo un vecchio, grasso tasso, che raspò con le zampe e subito fuggì via. Il monaco gli tirò contro il tizzone e lo colpì nella parte posteriore, bruciandogli il pelo della coda e della groppa. Il tasso mugghiò di dolore e scomparve nella notte. Capitolo 2. A quei tempi la terra era popolata di esseri che oggi raramente ci capita di vedere. C'erano fantasmi e demoni, spiriti di ogni sorta, divinità animali, piccoli dei e grandi dei. Ogni genere di entità, creature, esseri e spettri, sia benevoli che maligni. Una notte la volpe stava cacciando sulle pendici della montagna. La luna era calata e le tenebre avevano avvolto ogni cosa, quando a un tratto vide brillare sotto un pino rinsecchito delle luci bluastre. Silenziosa e veloce come un'ombra scivolò verso di esse. Man mano che si avvicinava, le luci si tramutavano in strane creature, né vive né morte, che risplendevano nell'azzurro tremolante degli effluvi delle paludi. Le creature parlavano tra di loro bisbigliando. «Dunque questi sono gli ordini», disse la prima creatura, con una fiammella blu che aleggiava sulla sua pelle nuda. «E il monaco dovrà morire». La volpe smise allora di muoversi e si nascose dietro un cespuglio di felci. «Proprio così», disse la seconda, con i denti affilati come piccoli coltelli. «Il nostro padrone, che noi indovino di yin yang dagli immensi poteri, dopo aver studiato le stelle e i sentieri della terra, ha visto questo. Al prossimo plenilunio, lui o il monaco dovranno morire. E se non sarà il monaco, allora toccherà al nostro padrone». «E in che modo dunque dovrà morire?» chiese la terza creatura, con gli occhi scintillanti di fiammelle azzurre. «Silenzio! C'è forse qualcuno che ci sta spiando? Sento degli occhi puntati verso di noi». La volpe trattenne il respiro e si acquattò a terra più che poté, rimanendo immobile. Le tre creature si librarono nell'aria e osservarono dall'alto il bosco oscuro. «Qui non c'è nient'altro che una volpe morta», disse la prima creatura. Una mosca si posò sulla testa della volpe e iniziò lentamente a camminare, giù fino in fondo alla punta del suo muso. L'animale si trattenne dal desiderio di cacciarla via con un colpo. Rimase lì, ferma, con lo sguardo assente e perso nel vuoto, fingendosi morta. «Questo è ciò che il nostro padrone intende dire», disse la prima creatura. «Per 3 notti di fila il monaco dovrà fare sogni forieri di cattivi presagi. La prima notte sognerà uno scrigno, la seconda notte una chiave nera, la terza notte sognerà di aprire lo scrigno con la chiave. Quando nei suoi sogni avrà aperto lo scrigno, perderà ogni contatto col mondo, e senza cibo né acqua sarà destinato a morire in poco tempo. La sua morte non graverà sulla coscienza del nostro maestro». Poi la creatura si guardò intorno ancora una volta. «Siete proprio certi che nessuno ci stia ascoltando?» La mosca strisciò sull'occhio della volpe, che non batté ciglio, sebbene quel prurito la stesse facendo impazzire. «Chi o cosa potrebbe ascoltare le nostre parole?» chiese la seconda creatura. «Una volpe morta?» E la sua risata riecheggiò lontana. «Se anche qualcuno ci ascoltasse, non avrebbe molta importanza», disse la prima creatura, «poiché se qualcuno riferisse ad altri ciò che ha sentito, il cuore gli esploderebbe in petto non appena pronunciata la prima parola». Un vento gelido sferzò la cima della montagna. Il cielo iniziò a farsi più chiaro verso est. «Ma non c'è modo che permetta al monaco di scappare al suo destino». «C'è solo un modo, però», disse il secondo. La volpe si sforzò di ascoltare il seguito, ma non udì nulla. Non proferirono altra parola. Tutto ciò che riusciva a sentire era il sibilo del vento che agitava le foglie cadute, il fruscio degli alberi che respiravano e ondeggiavano sotto i suoi colpi e il lontano tintinnio delle campane del piccolo tempio. Rimase lì in terra, rigida come un ramo caduto, finché il sole non fu alto nel cielo. Poi agitò la coda per cacciare via le formiche che le camminavano sulla zampa e percorse la strada a ritroso lungo il versante della montagna, finché non ebbe raggiunto la sua tana. La tana era fredda, buia, odorava di terra e in fondo ad essa si trovava ciò che la volpe aveva di più prezioso. Aveva trovato quell'oggetto diversi anni prima, incastrato tra le radici di un grosso albero, e aveva scavato e masticato e scavato ancora per giorni finché non era finalmente riuscita a sradicarlo dal terreno. Poi l'aveva pulito per bene, l'aveva leccato con la sua lingua rosa, lucidato con la sua stessa pelliccia e portato nella tana, dove lo custodiva e lo venerava. Era il suo tesoro. Era molto antico e veniva da una terra lontana. Era una statuetta di giada raffigurante un drago, con 2 pietre rosse al posto degli occhi. Il drago aveva donato conforto. Nell'oscurità della tana i suoi occhi di rubino brillavano, irradiando un caldo bagliore. La volpe afferrò con la bocca il suo piccolo tesoro, portandolo con la stessa cautela che avrebbe usato per uno dei suoi cuccioli. Trasportò la statuetta per miglia finché non ebbe raggiunto una scogliera a picco sul mare. In alto udiva le strida rauche dei gabbiani sotto di sé e le fredde onde si infrangevano contro gli scogli, mentre nell'aria percepiva l'odore salmastro dei flutti. «Questa è la cosa più preziosa che posseggo», pensò, «e me ne privo, donandola al mare. Tutto ciò che chiedo in cambio è sapere come salvare la vita del monaco, perché se non faccio nulla lui sognerà uno scrigno e poi una chiave, e di aprire lo scrigno con la chiave, e quindi morirà». Con il muso spinse la statuetta di giada giù dalla scogliera e la guardò precipitare dall'alto verso i flutti del mare agitato. Poi pianse, poiché quella piccola statua aveva donato alla sua tana serenità e pace. Ripercorse la lunga strada verso il suo rifugio e quindi, stanca oltre ogni immaginazione, si mise a dormire. Questo è il sogno che fece la volpe. Si trovava in una terra arida e brulla di pietre grigie e scure, dove non cresceva alcunché. Anche il cielo era grigio, né chiaro né scuro. Appostato su grossa roccia dinanzi a lei c'era un enorme volpone nero, corvino, dal muso fin quasi alla punta della coda, che era invece così bianca da sembrare appena intinta in un barattolo di vernice. Era più grande di una tigre, più grande di un cavallo da guerra, più grande di qualsiasi animale la volpe avesse mai visto in vita sua. Se ne stava su quella roccia, come se fosse in attesa di qualcosa, nel fondo dei suoi occhi neri come la pece brillavano stelle lontane. La volpe balzò da una roccia all'altra finché non si trovò proprio dinanzi al volpone del sogno e si prostrò ai suoi piedi, rotolandosi per mostrargli la gola in segno di sottomissione. «Alzati!» disse il volpone. alzati e non aver paura. Hai rinunciato a molto perché io ti apparissi in sogno, piccola mia. La volpe si alzò in piedi. Nel sogno non stava tremando, sebbene fosse più spaventata di quanto un piccola volpe potesse mai essere. «Il mio drago», chiese, «era forse vostro, signore?» «No», rispose lui. «Ma è stato smarrito tanto, tanto tempo fa, da qualcuno che io consideravo un amico. Molto tempo prima che i veri draghi lasciassero questo luogo per nuotare nel cielo. Il mio amico smarrì quella statuetta e ciò lo attristò molto. Ora il mare gliela restituirà e lui riposerà più serenamente in fondo ai grandi abissi con il resto della sua genia, fino alla prossima era del mondo. Sono onorata e grata di essere stata d'aiuto al vostro amico», disse la volpe. Rimasero lì, in silenzio, per alcuni interminabili momenti, nel luogo dei sogni, la piccola volpe e l'enorme volpe nera. La piccola volpe si guardò attorno in quella terra desolata e chiese: «Che animali sono mai questi?» Erano grandi quanto un leone e frugavano tra le rocce con i loro lunghi musi, scavando e annusando quella terra arida. «Sono dei Baku», disse il volpone, «sono mangiatori di sogni». La piccola volpe aveva sentito parlare dei Baku, che si desta da un sogno, chi si desta da un sogno nefasto o foriero di sventura può invocare un Baku e sperare che questo divori il suo sogno, cancellando così tutti i cattivi presagi che esso porta con sé. Osservò i Baku mentre si aggiravano nel deserto pietroso del regno dei sogni. «E se qualcuno catturasse un Baku che ha appena mangiato un sogno?» chiese la volpe. «Cosa succederebbe allora?» Il volpone rimase in silenzio per un po'. Una stella lontana brillò nel profondo dei suoi occhi. «I Baku sono difficili da catturare e ancora più da trattenere. Sono bestie scaltre e inafferrabili». «Io sono una volpe», disse umilmente, senza vanterie. «Anch'io sono un animale astuto». Il volpone annuì in segno di assenso. Poi abbassò lo sguardo verso di lei e alla piccola volpe parve che l'altra potesse percepire tutto ciò che era, tutto ciò che sognava, sperava e provava. «È solo un essere umano», disse il volpone, «mentre tu sei una volpe. Di rado queste storie vanno a finire bene». La volpe avrebbe voluto dirgli cosa pensava, aprirgli il suo cuore. Ma con un colpo di coda il volpone saltò giù dalla roccia, verso il deserto sottostante. Sembrò crescere a dismisura fino a diventare grande come il cielo, fino a diventare grande come la notte. Le stelle luccicavano sul suo manto scuro e la punta bianca della coda era un mezza luna che brillava nel cielo notturno. «Posso essere astuta», disse la volpe alla notte, «e so anche essere coraggiosa e darei la mia vita per lui». 「じっとしているよ」 当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよ散々迷って失敗するのもよくあることなのよ行き当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよどうしようもないけどなんとかなってるそれでいいじゃないの行き当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよ運もないけど神様いるってなんとなく信じてる行き当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよ行き当たりばったり行き当たり